State ascoltando Radio Isvara. Radio Isvara vi invita all'ascolto di Manunat Prabhu, lezioni e conversazioni. Bene, Hare Krishna. Questo è il mio primo video. Ho dimenticato di mettermi il microfono attaccato. Si vede che questo è il mio primo video su Ustream. È il mio primissimo video in diretta. Non faccio mai video in diretta perché un po' di correzione ci vuole sempre. Io sono un po' in difficoltà davanti a un occhiellino acceso lì che mi guarda, non c'è nessuno. Sono abituato a parlare alla gente, anche a tanta gente, e non soltanto questo non mi inibisce, il fatto di avere gente davanti, ma mi incoraggia perché almeno posso vedere le reazioni, e nel caso che io mi accorga che sto dicendo qualcosa che potrei evitare o qualcosa che potrei perfezionare, mi correggo. Qui non so l'effetto che faccio. Comunque, nella logica di provare a registrare in diretta, io vorrei rispondere a una domanda che mi è stata posta qualche tempo fa. Sono un po' in ritardo, parecchio in ritardo, mi dispiace. In genere rispondo abbastanza velocemente a tutte le domande. Quindi questa è una domanda di Federico che mi è arrivata e a cui chiedo scusa di aver tardato tanto, forse lui sa la situazione in cui ci troviamo. Siamo appena tornati in Italia dopo tanti anni all'estero e siamo in una situazione di trasloco ancora non ultimato, perciò tutti voi probabilmente sapete cosa significa un trasloco. Beh, prima di cominciare volevo dire che il mio nome è Manunat Das, sono un devoto di Krishna, come è evidente dal tilak, il segno che ho qui in fronte, dalla mia testa rasata. E oggi è il 11 ottobre 2010, perché non posso scrivere qui sotto, non posso scrivere niente. Ne posso scrivere www.isvara.org, che è il nostro sito internet, un po' il nostro indice, la pagina indice di Isvara. Bene, allora io procedo a leggere la lettera che mi è stata spedita da Federico e poi rispondo. Ciao a tutti, ero giusto di passaggio tra un video di Manonath Prabhu e una rilettura di una vecchia discussione avuta con lui nel precedente forum di Isvara. Peccato non averla ritrovata qui perché era interessante. Scherzi a parte, sono di ritorno per un paio di domande. Come viene considerato chi, pur non essendo un devoto, divulga materiale come discussioni o immagini che riguardano strettamente la vostra religione? È quello che sto facendo io per soddisfare qualche curioso di argomenti teologico-filosofici, ma non vorrei incappare in mancanze di rispetto o offese a Krishna. Forse come questione un po' paranoica, ma ci tengo molto a non offendere nessuno, tantomeno Dio. A presto e buona serata. Con tre faccine di sorriso, no? Più o meno, uno di sorriso, uno di ammiccamento e l'altra un po' così, un po' sull'attento, stiamo attenti, vorrei stare attento a quello che faccio. Bene, la risposta, solo apparentemente questa è una domanda così ingenua, un po' semplice, in realtà ci sarebbe tanto da dire. Prima di tutto va detto che non offende chi non offende, nel senso che se tu rispondi mettendo in bocca nostra cose che non diciamo e queste risposte sono offensive, contengono espressioni, messaggi irrispettosi, allora è irrispettoso. Cioè, in altre parole, non è l'atto in sé di rispondere per conto nostro che è offensivo, ma quello che dici. Ora, un'altra cosa che si può dire è che in realtà, come si dice, ambasciatore non porta pena, oppure si potrebbe usare l'analogia che usiamo abbastanza spesso di che dice quello del postino. Dice il postino, io scrivo una bella lettera, poi la do al postino, il postino la ricapita a un'altra persona. Ora, cosa sia questo postino? Sempre che non apre la busta e non scrive qualcosa lui, non importa perché lui sta soltanto dando un messaggio, lo sta dando esattamente così com'è. Poi se questa persona sia una brava persona o una persona meno brava importa molto poco. Naturalmente non vuole dire che chi non è devoto non è una brava persona o che tu non la sia. Quello che sto dicendo è che se tu non ti ritieni un devoto di Krishna, puoi comunque consegnare il messaggio dei devoti di Krishna se lo fai in maniera fedele, e cioè che tu dici esattamente quello che diciamo noi o riporti quello che diciamo noi in forma scritta o inviti la gente ad assistere ai nostri video o ascoltare le nostre lezioni in formato audio. Ecco, in questa maniera non c'è nulla di sbagliato, non c'è nulla di sconveniente o di mancanza di rispetto, perché tu sei il postino degli Hare Krishna, dei devoti di Krishna, che dice o riporta quello che diciamo noi in maniera fedele. Perciò, fin tanto che tu puoi interpretare quello che diciamo noi in maniera corretta, continua a rispondere, in nostra vece alla gente. E a dire agli altri quello che diciamo noi. Laddove non sei sicuro se la tua risposta è quella corretta, allora puoi sempre dire: beh, fin qui ci sono arrivato, oltre non saprei che dire. Ecco, questo è l'indirizzo dei devoti di Krishna, www.isvara.org, oppure li invito alle nostre conferenze, quando cominceremo, e allora non fare altro che portare la gente ad ascoltare da fonti più preparate. In definitiva, continua a fare quello che stai facendo, cercando di dire i devoti dicono questo, cercando di dire effettivamente quello che noi diciamo e non stravolgere il messaggio. Perciò benvenuto al mondo della coscienza di Krishna. Questa è Radio Isvara. I confini, ma in realtà insomma il mondo di Dio è tutto una cosa unica, no? E, però una religione vera non può essere limitata a una nazione o a un momento storico culturale particolare, ma se è religione deve essere universale. Essere universale così come il sole, anche se in questo momento splende su Crema, non è che diciamo che il sole è di Crema, non potremmo dire questo, il sole è di tutti. Perciò la nostra filosofia è una filosofia divina e perciò di tutti. Dio non è una cosa di qualcuno, non c'è un Dio degli indiani, un Dio degli italiani, un Dio degli americani, Dio è uno per tutti. Certo ci sono differenti religioni. E uno potrebbe dire c'è il Dio dei cristiani, il Dio dei musulmani, il Dio dei Vaishnava, ma in realtà non è così. Queste sono le differenti religioni sono solamente differenti manifestazioni storiche della stessa filosofia divina che però possono apparire diverse perché diverse sono le necessità storiche. Cioè, se tu vai a insegnare la matematica a un bambino di 5 anni, non puoi insegnarla né insegnare ciò che insegneresti a un universitario di 25 anni, né la maniera può essere la stessa cosa. Perché il grado di comprensione generale, il momento culturale dell'ascoltatore è diverso. Di conseguenza nascono diverse religioni. È certo che se poi c'è sempre lo solito sciocchino che prende le diversità e le scambia, invece che dire se ci sono delle diversità, crede che queste diversità siano ragioni di contrasti e vengono fuori le guerre di religioni, in cui tutte le religioni se le danno sempre di santa ragione, va bene, questo non è la nostra filosofia, non è la nostra cultura, non è in realtà cultura spirituale in generale, questo è soltanto il solito uomo che pensa bene di rovinare qualsiasi cosa di bello che esiste in questo mondo. Il capostipite della nostra filosofia non può che essere Dio, così come il capostipite di ogni religione deve necessariamente essere Dio, perché se non lo è, allora non è una religione. Perché la religione vera può provenire solo da Dio. Le religioni che non provengono da Dio non sono religioni, sono qualcos'altro. La nostra capostipite è Krishna. Krishna è un nome di Dio. Ma il nome di Dio non è uno solo, i nomi di Dio sono tanti. Perché i nomi di Dio sono tanti? Perché Dio non è un pezzo di metallo, una cosa che è sempre quella, ma Dio è infinito nei suoi pensieri, infinito nelle sue attività, infinito nelle sue qualità. Di conseguenza i nomi di Dio sono aggettivi delle qualità di Dio. E siccome Dio ha infinite qualità, Dio ha infiniti nomi. Ognuno di questi nomi si riferiscono a qualcosa di Dio e sono tutti che vanno tutti bene. A noi ci piace chiamarlo Krishna perché nella nostra tradizione il nome di Krishna ha un po' il significato di raggruppare in sé un po' tutti gli altri nomi, ma non facciamo polemiche se a un altro gli piace un altro nome di Dio. Noi facciamo polemiche quando qualcuno spaccia false cose per cose vere. Ma ci sono tante cose vere nel mondo della spiritualità e della religione, così tante da che ognuno può trovare un po' il suo spazio e il suo canale di attrazione nei confronti di Dio. Se a uno non gli piace Krishna, gli piace un altro nome, può comunque chiamare Dio con quel nome. Grazie. Avete ascoltato Manunat Prabhu, lezioni e conversazioni. State ascoltando Radio Isvara. La trasmissione che segue va in onda per gentile concessione del Centro Vaikunta, www.centrovaikunta.com. Buon ascolto di Isvara Radio e Hare Krishna. Hare Krishna a tutti. Hare Bol, Hare Krishna. Buona serata. Buona serata. Piacere vedervi ancora di nuovo. Vedervi, per modo di dire, per sentirvi. Non ho ancora visto nessuno. Ok, sentiamo. Bye. Sribo. Buonanotte. Om Agyanati Mirandasya Vyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Marobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaguna Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sarvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Ditascha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Shute Devi Pranamami Hari Priye Chakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschattyade Sattarine Allora, oggi continuiamo la lettura del libro, il libro di Krishna, siamo al capitolo 48, intitolato Dhritarashtra, il malintenzionato. Scusate. Purtroppo Dhritarashtra aveva questa personalità che a tutti i costi voleva essere lui l'imperatore o almeno suo figlio e come sappiamo tanti intrighi, tanti tentati di eliminare i Pandava. E abbiamo già visto nel primo canto dello Srimad Bhagavatam che alla fine della sua vita, dopo la battaglia di Kurukshetra, quando tutti i suoi figli, tutte le famiglie, tutti eliminati, e che lui è rimasto, ha perso tutto, arriva, torna indietro, dopo un lungo pellegrinaggio, torna indietro suo fratello Vidura, per aiutarlo a uscire da questa illusione e si sente? Prepararsi per la morte, prepararsi perché era molto vecchio. Infatti arriva Vidura dicendo ma fegato non funziona più, se non riesce a sentire, se è messo male, sta arrivando a morte e sei ancora qua cercando di gustare qualcosa di... E poi stai mangiando dal piatto di coloro che hanno ucciso i tuoi figli, sì, anche sì, se sì. Li avevano uccisi perché dovevano uccidere, era giusto così, però erano sempre gli uccisori dei suoi figli. Dici, come puoi rimanere qui in questo palazzo? Si è proprio, le ha dato una scossa così, è riuscita alla fine a uscire di casa e andare dalla foresta e praticare la vita. Yoga, le meditazioni e prepararsi per, e poi ha lasciato il corpo in modo dignitoso. Quindi vediamo che i sadhu a volte con il loro linguaggio tagliente vogliono appunto tagliare i nostri legami, i nostri attaccamenti e quindi apparentemente potrebbero sembrare duri ma in realtà stanno facendo il nostro bene, come l'esempio che fa Prabhupada di un chirurgo, no? Che usa i bisturi per tagliarti ma lo fa per... Non è che ti vuole uccidere o ferirti, ma ti vuole guarire, aiutare, appunto curare, no? Allora, cominciamo la lettura. Su richiesta di Sri Krishna, il Signore Supremo, Akrura andò ad Hastinapur, che pare sorgesse sul luogo dell'attuale Nuova Delhi, anzi il quartiere tuttora conosciuto col nome di Indraprastha coincide esattamente con l'ubicazione dell'antica capitale dei Pandava. Che Krishna manda Akrura per vedere la situazione dei Pandava, perché Krishna pensa sempre ai suoi devoti, anche se sono lontani. In questo caso Krishna era a Dwarka e i Pandava erano lì a Hastinapur. Lo stesso Krishna ha sempre nel suo cuore tutti i suoi devoti. Il nome stesso di Hastinapur suggerisce la presenza di numerosi Hasti. Cosa sono? Qualcuno lo sa? Cosa? Sì. Cosa sono i Hasti? Ah, sono gli elefanti. Elefanti. Che era tanti elefanti lì a Hastinapur, che era un segno che è molto ricchi. Che mangia 300 kg di cibo al giorno. Infatti i Pandava vi mantenevano molti elefanti, lusso consentito solo ai reami più ricchi. E Hastinapur era popolata di elefanti, cari, cavalli e altri emblemi di ricchezza, che Akrura, entrando nella città, non mancò di notare. A quei tempi i re di Hastinapur erano considerati imperatori del mondo. La loro fama copriva l'intero regno e la loro amministrazione beneficiava delle sagge direttive di un consiglio di brahmane erudite. Che i re non erano politici che facevano quello che volevano, ma seguivano il consiglio di brahmane, che erano i sacerdoti, i preti, che erano totalmente dedicati alle coltivazioni spirituali per il beneficio di tutte le società, e loro, con la loro intelligenza, guidava i chatrio, l'amministratore, di come amministrare lo Stato nella parte pratica, in un modo che tutti i membri della società progredivano spiritualmente verso la verità assoluta. Giunto nella capitale, Akrura ammirò le ricchezze della città, quindi venne ricevuto dal re Dhritarashtra. Seduto accanto al sovrano, egli vide anche l'anziano Bhishma. Poi fece visita a Vidura e a Kunti, sua cognata. Uno dopo l'altro rivide il figlio di Somadatta, il re di Balika, Dronacharya. Questo ovviamente era prima della battaglia di Kurukshetra, perché c'è Dronacharya, c'è Karna e Duryodhana. Era non tanto lontano dalla battaglia, perché era mandato a curare e vedere un po' la situazione politica. Quindi incontrò i cinque fratelli Pandava insieme ad altri amici e parenti residenti nella capitale. Figlio di Gandini, Akrura era conosciuto da tutti e tutti erano felici di ricevere una sua visita. Ogni volta gli offrivano un comodo seggio e lui si informava sul benessere e sulle attività dei suoi parenti. Essendo lui il prescelto da Krishna per questa missione, Akrura doveva aver dato prove di grande intelligenza nello studio delle questioni diplomatiche. Andate a vedere un po', indagare la situazione, come Dhritarashtra trattava i Pandava. Poi lui scopre che sono sotto attacco costantemente, così torna da Krishna. E così comincia ad andare verso le battaglie di Kurukshetra per eliminare i Kuru, per ristabilire i principi religiosi, che è la missione di Krishna in questo mondo. Perciò decisi di trattenersi nella capitale tutto il tempo necessario per esaminare a fondo la situazione creatasi dopo la morte del re Pandu. Quando Dhritarashtra aveva usurpato il trono in presenza dei figli del re defunto, capiva perfettamente che Dhritarashtra, animato da intenzioni equivoche, era propenso a favorire i propri figli. Invece nella sua posizione doveva essere equanime, non doveva pensare, questi sono i miei figli, li favorisco, e i miei nipoti invece no. Anzi. Non era in grado di essere imparziale, quella è la sua squalifica. Infatti dicevano che lui non era solamente cieco fisicamente, ma era anche cieco spiritualmente. In realtà Dhritarashtra, usurpatore del regno, mirava con una congiura e a sparazzarsi definitivamente dei cinque Pandava, voleva anche ucciderli. Akura sapeva inoltre che i figli di Dhritarashtra, sotto il comando di Duryodhan, seguivano una politica sì. senza scrupoli, scusate. E Dhritarashtra, invece di ascoltare i buoni consigli di Bhishma e di Vidura, si lasciava sfiare da uomini malvagi come Karna e Shakuni. Cattivi consiglieri, che lo portava sempre più lontano dal Dharma, dalle cose giuste. Akura intendeva dunque fermarsi qualche mese ad Hastinapur per esaminare l'intera situazione politica. Gradualmente Akura venne a sapere da Kunti e da Vidura, Kunti è la madre dei cinque Pandava, Bhima, Arjuna, Yudhishthira, Nakula, Sahadeva, e da Vidura, il fratello di Dhritarashtra, il zio dei Pandava, che Dhritarashtra era ingiusto verso i Pandava, invidioso della loro prodigiosa conoscenza nell'arte militare e della loro eccezionale forza fisica. Eroi valorosi, i Pandava manifestavano in pieno tutte le qualità delle Kshatriya e si mostravano capaci di assumere grandi responsabilità, sempre preoccupati del benessere dei cittadini. Questo è un vero Kshatriya, non è solo un guerriero che si arrabbia, ma una persona che cura e interessa il benessere dei cittadini. Immagina una politica che interessa veramente il benessere di tutti i cittadini. E i cittadini non includeva solo gli esseri umani, si chiama Praja. Praja vuol dire chi è nato in quel regno, che include anche gli animali. Così un vero Kshatriya proteggeva gli esseri umani e anche gli animali, e che è il compito diretto degli Vaishya, ma sotto le protezioni delle Kshatriya. Così erano tutti sereni, sicuri, in pace, nel regno di un vero Kshatriya. Akura seppe inoltre che l'invidioso Dhritarashtra e il suo sconsiderato figlio, Duryodhana, avevano già tentato di comune accordo di avvelenare i Pandava. Approfittando della presenza di Akura, suo cugino, Kunti gli chiese notizie della famiglia paterna e al ricordo del suo luogo natale ella non riuscì a trattenere le lacrime. Immagina l'ansia, lo stress di Kunti Devi, che era nella casa di questi zio che voleva uccidere i suoi figli. Come potrebbe vivere serenamente? Infatti era molto disturbato. Scusate. Vuole sapere da Akura se suo padre, sua madre, i suoi fratelli, le sue sorelle e gli amici si ricordavano ancora di lei. E soprattutto Krishna e Balaram, i suoi gloriosi nipoti. Krishna, Dio la persona suprema che mostra tanto affetto verso i suoi devoti, si ricorda dei miei figli? Sta Kunti Devi che chiede, piangendo, che siamo in così grandi difficoltà. E Balaram si ricorda di noi? Dentro di sé Kunti si sentiva come una cerbiata in mezzo alle tigri In realtà era proprio così. Rimasta vedova, ella si assunse il compito di proteggere i giovani Pandava, ma Dhritarashtra, infaticabile, escogitava nuovi piani per ucciderli. Che situazione. Era proprio come una cerbiata indifesa in mezzo alle tigri. Fedeli devote dal Signore, Kunti pensava sempre a lui e sperava che un giorno Krishna sarebbe venuto a salvarlo, insieme ai suoi figli, dalla pericolosa situazione in cui si trovavano. Ma invece è dovuto passare tanti anni ancora in esilio, ha perso tutto, la foresta e poi la battaglia di Kurukshetra e finalmente. Ma Krishna era sempre, pensava sempre di loro. In tante situazioni lo salvavano. Per esempio, una volta Duryodhana, per un altro complotto per fare male alle Pandava, mettere in difficoltà i Pandava, mette in difficoltà, ma grande difficoltà, mandava Durvasa Muni, vai a trovare con i tuoi 60.000 discepoli, e l'ha mandato esattamente alle ore che dopo, ma che era dopo che ha mangiato, no? dopo pranzo, in modo che questo saggio andava lì e aspettava di essere ricevuto dai Kshatriya, che è il loro dovere, e dato da mangiare a lui e tutti i suoi discepoli. Perché nella cultura vedica era così. Immaginate che arrivano, vi trovate dopo pranzo se a casa, quanti erano? 60.000 ospiti. Però siccome questo saggio Durvasa era un saggio, però si aveva anche questa caratteristica, perché era un'emanazione di Shiva, mi pare che sì, si colleriva facilmente, cioè se riuscivi a soddisfarlo ti dava anche delle grandi benedizioni, ma al contrario ti dava anche delle grandi maledizioni, quindi le maledizioni dei saggi poi non è che erano come le nostre, che magari uno tira un accidente o un altro, ma non succede niente perché non abbiamo nessun potere mistico. Mentre lui aveva molti poteri e quindi se ti dava una maledizione poi dovevi subirla. E quindi Duryodhana aveva mandato appunto appositamente, perché lui sapeva che loro, i Pandava, avevano una pentola magica. Sì, che gli era stata donata, e una volta che Draupadi cucinava con questa pentola poteva sfamare chiunque si trovasse lì nei paraggi, però una volta che aveva lavato la pentola non avevano mangiato loro. Si avevano mangiato e la pentola era stata lavata, non potevano più usare questa pentola ancora fino al giorno dopo, sì. Cioè una volta al giorno praticamente potevano usarla. La vorrei io una pentola così. E voi? Dico, vi invito a pranzo. E così, insomma, erano in grande difficoltà. E poi? Arrivato Krishna giusto in tempo, ha detto, fammi vedere quella pentola. Perché intanto Durvasa Muni era andato a fare il bagno. Era andato a fare il bagno, ha detto, al quando fiume. Loro hanno detto, andate a fare l'abluzione al fiume e poi torna. Quando tornerete sarà tutto pronto. Poi sono andato in panico, come facciamo? Poi subito è arrivato Krishna per proteggere i suoi devoti, ha detto, fammi vedere quella pentola. Ho trovato un pizzico così di spinaci che vegetali, si era attaccato e mangiato subito. Tu dovessi venire, tutti i suoi discepoli sentivano come se forse hanno appena mangiato un'enorme festa, sentivano completamente pieni, strapieni e soddisfatti. Ho detto, oh, ma come facciamo se torniamo là e loro hanno tutta questa festa pronta, ma noi non possiamo sarei un'offesa a loro di non onorare questa loro festa, e non è che andiamo via. Allora ce ne andiamo. Ce ne andiamo e così. E così scamparono il pericolo. E in tanti modi Krishna era sempre a Draupadi quando Dushasan cercava di strappare il sari. Krishna si è manifestato in un sari infinito che continuava a coprire così. Sempre a protezione dei suoi devoti. Se leggete il Mahabharata ci sono veramente tutte queste storie nei dettagli, molto belle. senza la spiegazione di Prabhupada, una volta che hai letto il libro di Krishna, poi riesci a capire, si riesce a capire meglio le storie, si riescono a capire meglio le storie del Mahabharata. Deve familiarizzare con tutta questa situazione. In più la parte filosofica. Krishna sarebbe venuto a consigliare i Pandava, orfani di padre, su modo di sfuggire alle intrighi di Dhritarashtra e dei suoi figli, Kesa e Kunti. Quell'incontro con Akrura aveva risvegliato il suo dolore e nella sua impotenza esclamò: «Oh Krishna, mio caro Krishna, tu sei lo yogi sovrano, l'anima suprema dell'universo. Tu sei il vero amico del mondo intero. Oh Govinda, tu sei lontano da me ora, ma ti prego, fa che mi abbandoni ai tuoi piedi di loto. Grande è il mio dolore quando penso alla sorte dei miei 5 figli, orfani. Fuori dai tuoi piedi di loto so che non c'è rifugio perché tu sei Dio, la persona suprema, e i tuoi piedi di loto possono liberare dalla sofferenza tutte le anime infelici. Solo la tua grazia può sottrarci al ciclo senza fine della morte e rinascita. Caro Krishna, tu sei l'essere più puro, l'anima suprema e il maestro di tutti gli yogi. Che altro a dire? Non posso offrirti che il mio rispettoso omaggio. Accettami come tua devota, completamente abbandonato a te». Kunti offrì le sue preghiere come se Krishna fosse di fronte a lei. Perché per un puro devoto, vedi, quando parla con Krishna, vedi proprio come Krishna è proprio lì davanti a lei. Anche se in realtà lui non era presente. Infatti non è necessario che Krishna sia presente ovunque in persona, perché egli è già in ogni luogo grazie alla sua potenza spirituale. Occorre soltanto abbandonarsi a lui in tutta sincerità, come fece Kunti, e chiunque segue il suo esempio giungerà alla stessa realizzazione, che Krishna è lì presente. Mentre offriva le sue preghiere a Krishna con profondo sentimento, Kunti non poté soffocare i singhiozzi. Vidura, che era presente, e Akrura stesso provarono una grande compassione per la madre dei Pandava e cercarono di consolarla glorificando i suoi figli, Yudhishthira, Arjuna e Bhima. E lei si sentì sollevata nell'udire le lodi della loro straordinaria potenza, nati da illustri deva come Yamaraj, Indra e Vayu, perché preoccupassi della loro sorte. Anche questa storia di come lei, di come nacquero questi 5 Pandava, di come lei ebbe questi figli da 5 deva diversi, cioè nel Mahabharata è una storia molto bella, lunga ma bella. 5 che poi in realtà ebbe 6 figli, sì, però non vi diciamo chi è il sesto. Dopo questo incontro, Akrura decise di tornare da Krishna per riferirgli le condizioni disparate in cui si trovavano Kunti e i suoi 5 figli. Prima però vuole dare qualche buon consiglio a Dhritarashtra, che tanto favorevole era verso i propri figli quanto ostile verso i Pandava. In presenza di Kunti e di tutti i parenti e gli amici, Akrura si rivolse al re chiamandolo Varchitravirya, cioè figlio di Vichitravirya, nome del padre putativo di Dhritarashtra, che in realtà era stato concepito da Vyasadeva. Questa è un'altra storia. Ci sono tante storie. È tutto intricato, tutto collegato. Ma molto, storia. Molto affascinante. E gradualmente, se studi, leggi la Mahabharata, che è in italiano, c'è una versione fatta dai devoti. C'è anche il film. C'è il film. E come ci conosci tutte queste personalità e le loro relazioni, eccetera. Il film con i sottotitoli in italiano. A quei tempi, se un uomo non era, questo non è permesso adesso, quei tempi se un uomo non era in grado di procreare, suo fratello poteva concepire un figlio con la sposa di lui. Non è permesso oggi in Kali Yuga. Sì, perché c'era una coscienza diversa. Molto diversa. era proprio l'importanza di avere figli. Di avere questi figli, soprattutto chi era a capo del mondo, aveva bisogno dell'erede, quindi era molto importante avere un figlio maschio o più figli maschi. Dava alla luce il figlio concepito col cognato, il bambino spettava allo sposo legittimo. Oggi, nelle aree di Cali, questa pratica è severamente proibita. Perché? Okay. Perché tutti ne approfitterebbero per fare. Non tutti, ma insomma. Il titolo dato da Krull era dunque sarcastico, perché Dhritarashtra era figlio di Vyasadeva. Ma con questa nota sarcastica si voleva mettere in discussione il diritto di Dhritarashtra al trono ereditario. In realtà solo un figlio di Pandu poteva essere il vero successore. Ed essendo vivi i Pandava, Dhritarashtra non avrebbe mai dovuto occupare il trono. O figlio di Vichitravirya, disse Akrura, tu hai usurpato il trono dai Pandava. Ma ora, poiché sei tu ad occuparlo, ti prego, ascolta i miei consigli, affinché il regno sia amministrato secondo buoni principi morali. Se segui questi consigli e ti sforzi di insegnare ai tuoi sudditi un'etica sana, allora il tuo nome brillerà in eterno. Con queste parole, Akrura voleva far notare che Dhritarashtra maltrattava i suoi nipoti, i Pandava, che erano anche essi suoi sudditi. Senso meno come bravo imperatore deve curare imparzialmente tutti i tuoi sudditi, incluso anche i Pandava. Anche se ti rifiuti di riconoscere il loro diritto ereditario al trono, essi sono i tuoi sudditi e tu devi provvedere con imparzialità al loro benessere, come se fossero figli tuoi. Se agisci diversamente perderai l'estima dei tuoi sudditi e nella prossima esistenza troverai a subire una condizione di vita infernale. Che se il re non faceva il suo dovere bene e curava tutti i cittadini, prendeva le reazioni, perché il re prendeva le reazioni anche di una parte delle reazioni karmiche di tutti i suoi cittadini, perché era, perciò era importante anche per lui di guidare tutto verso l'elevazione spirituale, se no questi capi di Stato di oggi non sanno cosa aspetta, che prendono, mi sembra che un sesto del karma di tutti i cittadini. Spero dunque che il tuo favore si rivolga senza parzialità sia ai tuoi figli sia ai figli di Pandu. Akrura prospettava a Dhritarashtra l'eventualità di uno scontro violento tra le due fazioni qualora il re avesse insistito a non trattare equamente i figli propri e i figli di Pandu. E poiché era giusta la causa dei Pandava, essi sarebbero usciti vincitori, mentre i figli di Dhritarashtra sarebbero andati incontro a una morte sicura. Sta vedendo per il futuro, prevedendo. Questa fu dunque la chiara profezia di Akrura. In questo mondo, prosegue Akrura, nessuno può essere un compagno eterno. Soltanto per caso ci uniamo in famiglie, società, comunità e nazioni. Ma un giorno o l'altro dovremo separarci, perché tutti dobbiamo lasciare il corpo. Nessuno dovrebbe dunque nutrire un affetto eccessivo per la propria famiglia. Non è facile. E andare fuori dal Dharma per questo, dovuto a questo affetto, come sta succedendo a Dhritarashtra. Soprattutto, sì. L'amore di Dhritarashtra per i propri figli assumeva proporzioni esagerate e non era certo un sintomo di grande intelligenza. Nasceva anzi da un'ignoranza grossolana e a Akrura glielo fece capire con un chiaro discorso. È stato proprio molto diretto, come farà Vidura dopo la battaglia di Kurukshetra. ci volevano bene perché faceva di tutto per cercare di tirare fuori di trascere questa guai, questa confusione, questa illusione. Noi crediamo di appartenere a una famiglia, a una società o a una nazione, ma ognuno è solo col proprio destino. Quando lasciamo un corpo, noi dobbiamo affrontare le nostre karma, nessuno prende una parte per noi, solo il maestro spirituale. Ognuno rinasce in questo mondo secondo le azioni compiute nella sua vita passata e individualmente godrà o soffrirà le reazioni del proprio karma. Non si può migliorare il proprio destino semplicemente vivendo insieme agli altri. Semplicemente in un'organizzazione comunitaria. A volte accade che un figlio sperperi le ricchezze che il padre ha accumulato in modo illecito, proprio come il piccolo pesce che divora il grande pesce ormai vecchio. Nessuno in realtà può accumulare ricchezze in modo illecito per assicurare il benessere della famiglia, della società o delle nazioni. Anche i grandi imperi del passato oggi non esistono più, perché le loro ricchezze sono state dilapidate dai discendenti dei loro fondatori. Classica storia, l'impero romano. Colui che ignora questa sottile legge che regola gli atti interessati e rifiuta i principi morali che l'accompagnano non farà altro che trascinarsi dietro le reazioni nefaste dei suoi atti peccaminosi. Le ricchezze e le proprietà illecite gli verranno sottratte e cadrà nelle regioni più tenebrose dell'esistenza infernale. Perciò nessuno dovrebbe accumulare più di quanto gli riserve il destino, se non vuole essere cieco davanti al suo vero interesse. Altrimenti, invece di curare il proprio interesse, sarà lui stesso la causa della propria rovina. Akrura continuò: caro Dhritarashtra, ascolta il mio consiglio. Ti prego, non essere cieco di fronte alla realtà di questa esistenza materiale, che è vissuta nella gioia o nel dolore. Rimane pur sempre un sogno. Bisogna impegnarsi a controllare la mente e i sensi, per vivere serenamente, progredendo sulla via spirituale della coscienza di Krishna. Il Chaitanya Charitamrita afferma che tutti in questo mondo, eccetto chi è situato nella coscienza di Krishna, vivono continuamente in uno stato di turbamento mentale e di angoscia. Neppure coloro che aspirano a raggiungere la liberazione o a fondersi nello sfolgorio del Brahman, neppure gli yogi che ricercano la perfezione dei poteri sovrannaturali possono ottenere la pace mentale. I puri devoti di Krishna invece non chiedono niente al Signore perché sono pienamente soddisfatti del servizio che gli offrono. La vera pace e la serenità mentale si raggiungono solo sul piano della perfetta coscienza di Krishna. È un po' tardi. Andiamo a finire quel capitolo. Mio caro Akrura, rispose Dhritarashtra, dopo che ebbe ascoltato gli insegnamenti morali di Akrura. Cosa? Ma si sente la mia voce. Tu sei molto magnanimo nel prodigarmi questi buoni consigli, ma io purtroppo non posso seguirli. L'uomo condannato a morire... Questa è la risposta di Dhritarashtra a tutti questi buoni consigli di Akrura. Lo so che è vero, ma non riesco. Sì, perché era debole. Attaccato. Perché era debole, sì, la debolezza. Essere attaccati vuol dire debolezza. L'uomo condannato a morire in breve tempo non saprà trarre benefici dal nettare che gli si offre. Pur apprezzando il valore dei tuoi insegnamenti, non posso tenerli impressi in questa mia mente vacillante, più di quanto il fulmine non si trattenga in una nuvola. Tutto ciò che riesco a capire è che nessuno può frenare il compiersi della volontà suprema. Dio, la persona suprema, Sri Krishna, è apparso nella dinastia Yadu per alleviare la terra dal suo fardello troppo pesante. Cioè lui intendeva dire che alla fine non dipendeva da lui, ma dipendeva da Krishna? Era destino, nel senso ormai... Ah, qui lo dice, qui lo dice. Con queste parole Dhritarashtra lasciava trapelare la sua incrollabile fede in Krishna, il Signore Supremo, eppure allo stesso tempo non riusciva a trattenersi dal dimostrare una grande parzialità in favore della sua famiglia. In un futuro molto prossimo Krishna avrebbe sconfitto tutta la sua famiglia. Solo allora, nella sua impotenza, Dhritarashtra si sarebbe rifugiato ai piedi di Krishna. Quando Krishna vuole mostrare un favore speciale al suo devoto, lo priva di tutti gli oggetti materiali a cui è affezionato. Quindi... Sorpreso! Ponendolo così in una situazione materiale che non gli lascia altra scelta se non il rifugio ai suoi piedi di loto. E questa è la più grande benedizione, però bisogna essere pronti. Infatti c'era un devoto, mi ricordo tanti anni fa, Prabhupada Desh, che appunto diceva: ma io vorrei le difficoltà così che posso poi, potrò poi prendere rifugio di più in Krishna. E un altro devoto che praticava da più tempo ha detto: guarda, stai calmo, tanto non c'è bisogno di pregare, perché tanto le disgrazie ci arriveranno comunque, le difficoltà, diciamo, no? Perché tu non sei a livello della regina Kunti di pregare, di volere maggiori difficoltà, tanto in questo mondo ci sono così, ci arriveranno lo stesso, le vediamo soprattutto in questo periodo, devi andare a cercare. E infatti questo devoto poco dopo aveva un incidente molto importante e si ricordò di queste parole che gli aveva detto quest'altro devoto, di non chiedere cose che poi magari non riusciamo. Poi lui è stato bravissimo, è riuscito ad affrontare tutto in modo molto cosciente di Krishna, però appunto state attenti a quello che siamo attenti, siamo, perché poi sì, non siamo a livello della regina Kunti. Ed è ciò che accadrà a Dhritarashtra una volta conclusa la battaglia di Kurukshetra. Dhritarashtra sentiva dentro di sé la presenza di due tendenze opposte. Sì, perché anche nel film poi si vede, no? Si vede che lui a volte capiva, però poi arrivava il figlio, gli parlava e cambiava idea. Shakuni, suo figlio. Cioè la cattiva associazione, perché quando lui si associava con Vidura, con le persone sante, allora era focalizzato, ma appena arrivava Shakuni, che era suo cognato, e poi il figlio Duryodhana, che era proprio il suo punto debole, perché in effetti quando nacque Duryodhana ci furono così tanti segni funesti, le iene che ululavano, i lupi, cioè non era niente di favorevole, che proprio i saggi gli dissero: è meglio che buttarlo al fiume e ucciderlo, perché questo bambino sarà fonte di sofferenza per il pianeta. E però lui non riuscì ad ascoltare il consiglio dei saggi, perché insomma era suo figlio, anche comprensibile, però siccome lui era anche l'imperatore doveva capire il piano superiore, no? Ma in realtà si vede che le cose dovevano andare così, c'era e quindi un altro piano. Sì, c'era un altro piano, no? Alla fine, insomma. Egli sapeva che Krishna era apparso per liberare la terra da ogni peso superfluo, quindi anche dai propri figli che si aspettava di vedere uccisi. D'altra parte non riusciva a distaccarsi dall'aspetto sconsiderato che nutriva verso di loro. Ammettendo la presenza di questa dualità, Dhritarashtra rivolse il suo rispettoso omaggio a Dio, la persona suprema. Le vie contraddittorie dell'esistenza materiale sono molto difficili da comprendere, si devono accettare come manifestazione impenetrabile del piano del Signore, e con la sua inconcepibile energia crea l'universo materiale, vi penetra mentre mette in atto i tre guna, e quando tutto è creato entra in ogni essere vivente e anche nel più piccolo degli atomi. Nessuno può capire il piano del Signore. Da queste parole Akrura poté capire definitivamente che Dhritarashtra non avrebbe cambiato la sua politica. Così senza più attardarsi salutò i suoi amici di Astinapura e ripartì per il regno degli Yadu. Giunto a Mathura pensò a Sri Krishna, Balarama, il quadro della situazione e delle intenzioni di Dhritarashtra. Inviato da Krishna per studiare la situazione politica ad Astinapura, Akrura portò brillantemente a termine la sua missione per la grazia del Signore e informò Krishna su tutti i dettagli della situazione. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul 14° capitolo del libro di Krishna intitolato Dhritarashtra, il malintenzionato. E ricordiamo, ha fatto un errore, Krishna non era ancora trasferito a Dwarka, era ancora a Mathura, che l'ho menzionato prima. Cantiamo Nrisimhadeva. Namaste Narasingaya. Namaste Narasingaya. Nel cantare e ascoltare di Krishna. Domani mattina alle 6 c'è il Srimad Bhagavatam come sempre e domani sera alle 19:30 c'è il Bhagavad Gita. Alle 20. Alle 20 c'è Bhagavad Gita online, o se venite, alle 19.30 al centro Vaikuntha. Vi aspettiamo da vivo. Con un buonissimo prasadam. Che è l'unica cosa che manca. Ma troveremo il modo anche di darvelo attraverso internet. Hare Krishna. Grazie per averci seguito, Hare Krishna. Grazie anzi per la compagnia, così abbiamo letto insieme, ascoltato insieme le glorie di Krishna. Compagnia di Vaishnava, non c'è niente di più grande valore nel mondo. Haribol! Venum quanantam Aravinda Dalayataksham Balhavatam sam asitam Budasundarangam Kandalpakotikamaniya Vishesha Shobham Govindam Adi Purusham Tamaham Bhaja. Angani asya sakalendriya vrittimanti Pashyanti panti kalayanti Chirang jaganti Ananda chinmaya sadhu jvala vigrahasya Govindam Adi Purusham Tamaham Bhaja. State ascoltando Radio Isvara. Nuova ricetta di Ramananda Das qui su Radio Isvara. Vi ricordo che potete scriverci radioisvara@gmail.com. Buon ascolto e Hare Krishna. Oggi prepariamo delle verdure al gratin con, per 4 persone, 400 g di zucca già privata della buccia, 200 g di cime di cavolfiore, 200 g di cime di broccoli, 50 g di parmigiano reggiano grattugiato, 50 g di provola, 50 g di burro, sale. Tagliate la zucca a pezzetti. Separate le cime di broccoli e cavolfiori, cuocetele a vapore per 10 minuti oppure lessatele. Con una grattugia a buchi larghi grattugiate la provola e mescolatela con il parmigiano. Condite le verdure con un po' di sale, metà del formaggio e con metà del burro. Mettete il tutto in una pirofila, coprite con i formaggi rimasti e con il burro a fiocchetti. Infornate a 200 gradi e cuocete per 15 minuti. Sfornate e servite. Hare Krishna. Radio Cucina. Ricette vegetariane lette in pochi secondi da Ramananda Das. Buon ascolto e Hare Krishna da Radio Isvara @gmail.com. Biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte prima, siamo nel quarto capitolo, intitolato Come potrò servirti? Alla fine della scorsa puntata eravamo arrivati al momento in cui Abai prese l'iniziazione dal suo maestro spirituale Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, che aggiunse al suo nome Charan e Aravinda. Ora egli era Abai Charan Aravinda. Dopo che Srila Bhaktisiddhanta ebbe lasciato Allahabad per Calcutta, Abai sentì acutamente la responsabilità di lavorare a vantaggio del suo maestro spirituale. Al momento dell'iniziazione, Srila Bhaktisiddhanta aveva consigliato ad Abai di studiare il Bhakti Rasamrita Sindhu. Di Rupa Goswami, che metteva in rilievo gli scambi d'amore tra Krishna e i suoi devoti e spiegava come il devoto può avanzare nella vita spirituale. Il Bhakti Rasamrita Sindhu era il testo di legge per il servizio devozionale e Abai voleva studiarlo con attenzione. Era contento di intensificare le sue visite al centro di Allahabad e di portare nuove persone. Anche nel corso del suo primo incontro con il maestro spirituale, egli aveva ricevuto l'istruzione di predicare la missione di Sri Chaitanya e ora cominciava a considerare fermamente e attentamente come avrebbe potuto mettere in pratica questa istruzione. Predicare era una responsabilità almeno altrettanto impegnativa di quella della famiglia e degli affari. Anche a casa sua egli voleva impegnarsi il più possibile nella predica. Discuteva con sua moglie il progetto di invitare le persone a casa, di offrire prasadam e parlare di Krishna. Lei però non condivideva il suo entusiasmo. Srila Prabhupada racconta: mia moglie era una devota di Krishna, ma aveva idee diverse. Secondo la sua idea era sufficiente adorare Dio e vivere serenamente. La mia idea, invece, era di predicare. Non era possibile per Abai viaggiare con il suo maestro spirituale o anche vederlo spesso. Gli impegni della farmacia lo tenevano occupato e doveva spostarsi continuamente. Tutte le volte che era possibile, tuttavia, cercava di andare a Calcutta, anche quando anche Srila Bhaktisiddhanta era là. Così nel corso dei successivi 4 anni, egli fece in modo di incontrare il suo maestro circa una dozzina di volte. Quando Bai visitava Calcutta, il devoto incaricato dei libri alla Gaudiya Math, Nityananda Brahmachari, andava a rilevarlo alla stazione dei treni di Howrah, con una carrozza a due cavalli che apparteneva al Mata. Nityananda considerava Bai una persona eccezionalmente umile e tollerante. Mentre correvano insieme verso il Mata, Bai si informava ansiosamente delle ultime attività di Srila Bhaktisiddhanta, i suoi viaggi, le sue pubblicazioni, il numero di centri che erano stati aperti, ciò che i discepoli stavano facendo. Non parlavano molto degli affari di Abai. Abai rimaneva al tempio circa 5 giorni, talvolta visitava una delle sue sorelle che viveva a Calcutta, ma la principale ragione delle sue visite in quella città era Srila Bhaktisiddhanta. Abai coglieva ogni opportunità per vederlo. Abai non cercava di diventare un leader all'interno dell'organizzazione della Gaudiya Math. Il suo maestro spirituale aveva iniziato 18 sannyasi ed essi svolgevano la maggior parte della predica e le funzioni direttive della missione. Abai era sempre il capofamiglia occupato nei suoi impegni familiari e viveva al Mata solo nel tempo delle sue brevi visite. Eppure, egli aveva cominciato a sviluppare una relazione stretta con il suo maestro spirituale. Talvolta Abai andava a incontrarlo al Chaitanya Math, il luogo di nascita di Sri Chaitanya Mayapur. Un giorno Abai si trovava nel cortile del Chaitanya Math quando un grosso serpente uscì strisciando dinanzi a lui. Abai chiamò i suoi confratelli che accorsero, ma si limitarono a stare a guardare, incerti sul da farsi. Srila Bhaktisiddhanta uscì sulla veranda del secondo piano, vide il serpente e immediatamente ordinò di ucciderlo. Un ragazzo allora afferrò un grosso bastone e lo uccise. Srila Prabhupada racconta: io pensavo, perché mai il mio maestro spirituale ha ordinato di uccidere il serpente? Ero un po' sorpreso. Più tardi però trovai questo verso. Modeta Sadur api Vrishika Sarpahatya. Anche le persone sante sono contente quando uno scorpione o un serpente viene ucciso. Mi era rimasto un dubbio. Ero stupito che il mio maestro spirituale avesse ordinato di uccidere un serpente. Ma dopo aver letto che al serpente e ad altre creature simili al serpente non deve essere mostrata alcuna misericordia, mi sentii soddisfatto. Srila Bhaktisiddhanta era considerato così austero e ferrato nell'argomentazione contro gli altri filosofi che persino i suoi discepoli erano cauti nell'avvicinarlo. Se egli sedeva da solo e loro non avevano alcuna particolare questione da sottoporgli, eppure, benché il contatto di Abai con lui fosse abbastanza limitato, Srila Bhaktisiddhanta lo trattava gentilmente. Srila Prabhupada dice: tutte le volte che incontravo il mio Guru Maharaj, egli mi trattava molto affettuosamente. Talvolta i miei confratelli sollevavano qualche obiezione perché io parlavo un po' troppo liberamente con lui. E citavo il proverbio inglese che afferma: gli sciocchi corrono là dove gli angeli temono di camminare. Io però pensavo: sciocco? Sì, forse sarò così, ma questo è il mio modo di fare. Il mio maestro era sempre stato molto affettuoso con me. Quando gli offrivo gli omaggi, egli era solito rispondere: Dasosmi, sono il tuo servitore. Talvolta, quando Srila Bhaktisiddhanta camminava avanti e indietro cantando il mantra ad alta voce, mentre faceva scorrere tra le dita le perle del japa, Abai entrava nella stanza e cantava anche lui, camminandogli accanto. Una volta Srila Bhaktisiddhanta, quando Abai entrò nella stanza, era seduto su un divano. Abai prese una sedia e si sedette accanto a lui, a uguale livello. In seguito notò che tutti gli altri discepoli nella stanza erano seduti a un livello più basso dei piedi del loro maestro spirituale. Per quanto in quell'occasione Srila Bhaktisiddhanta non gli avesse detto nulla, Abai non si sedette più a uguale livello con il suo maestro spirituale. Un giorno Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati stava parlando in una stanza a un folto gruppo di discepoli e Abai ascoltava, quando un uomo anziano seduto accanto a lui gli rivolse la parola. Mentre Abai si sporgeva per sentire ciò che l'uomo voleva chiedergli, all'improvviso Srila Bhaktisiddhanta si rivolse infastidito ai due discepoli apparentemente disattenti. «Babu», disse rivolgendosi prima all'uomo anziano seduto accanto ad Abai, «credi di avermi comprato con la tua donazione di 150 rupie al mese?» Poi, rivolto ad Abai, «perché non vieni qui?» disse, «e parli al posto mio?» Abai rimase visibilmente mortificato, ma fece tesoro del rimprovero. Fu in un incontro privato che Srila Bhaktisiddhanta parlò ad Abai dei rischi che aveva corso predicando con tanto ardire. Srila Prabhupada racconta: il contributo del mio Guru Maharaj consiste nel fatto di aver sconfitto la casta dei Goswami. Egli sgominò questo brahmanesimo. Lo fece nello stesso modo in cui Chaitanya Mahaprabhu lo aveva fatto, come se Chaitanya dice: Kiba vipra kiba nyasi, sudra kene naya, ye Krishna tattva veta sei, guru haya. Non vi è considerazione della posizione di sannyasi, di brahmana, di shudra o di griasta. No, chiunque conosca la coscienza di Krishna è perfetto, è un Goswami, è un brahmana. Nessun altro aveva insegnato ciò dal tempo di Sri Chaitanya. Questo fu il contributo del mio Guru Maharaj. Fu per questa ragione che dovette affrontare tante veementi proteste dai brahmana della casta dei Goswami. Una volta essi cospirarono contro di lui, il mio Guru Maharaj me lo confidò personalmente. Per sua grazia, quando ci incontravamo da soli, egli parlava con me e mi disse personalmente che quelle persone volevano ucciderlo. Avevano raccolto 25.000 rupie e cercarono di corrompere l'ufficiale di polizia addetto a quella zona dicendo: prendi questo denaro, noi agiremo contro Bhaktisiddhanta Sarasvati e tu non prenderai alcun provvedimento. Il poliziotto comprese da quelle parole che essi avevano l'intenzione di ucciderlo. Così l'ufficiale di polizia andò da Bhaktisiddhanta Sarasvati e gli parlò con franchezza: naturalmente noi accettiamo buste e stiamo a questo gioco, ma non per un sadhu, non per una persona santa. Non oserei mai farlo. L'ufficiale di polizia aveva rifiutato e avvertì il mio Guru Maharaj: abbi cura di te, questa è la tua posizione. Ciò accadeva a causa delle sue violente proteste. Srila Bhaktisiddhanta apprezzava l'audacia nei suoi discepoli. Abai aveva sentito dire che una volta uno dei discepoli di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva parlato molto schiettamente in un incontro pubblico e aveva denunciato un monaco Mayavadi molto famoso, definendolo un prete sciocco. Il commento aveva provocato una spaccatura nell'uditorio e alcuni discepoli riferirono l'incidente a Srila Bhaktisiddhanta. pensando che egli si sarebbe lamentato per il disturbo causato dal suo discepolo. Srila Bhaktisiddhanta invece notò compiaciuto. Ha fatto bene, non gli piaceva, al contrario, sentir dire che qualcuno accettava il compromesso. Quando il mio guru Maharaj era presente, perfino grandi studiosi temevano di parlare anche con uno dei suoi discepoli principianti. Il mio guru Maharaj era chiamato enciclopedia vivente. Poteva parlare con qualsiasi persona su qualsiasi argomento e non scendeva mai a compromesso. I cosiddetti santi, avatar, yogi, ogni persona falsa era un nemico per il mio guru Maharaj. Non faceva mai compromessi. Alcuni confratelli si lamentavano dicendo che questa predica era una tecnica tagliente e non avrebbe avuto successo, ma coloro che lo criticavano caddero. Srila Bhaktisiddhanta era conosciuto come Sima, leone, guru, Shima Guru. Ogni tanto, quando vedeva qualcuno che conosceva come un fautore dell'impersonalismo, lo chiamava in causa e lo sfidava. Perché sta ingannando la gente con la filosofia Mayavada? Diceva spesso ai suoi discepoli di non scendere mai a compromesso. Perché illudete la gente? Soleva dire, dovete affermare la pura verità senza illusioni. Il denaro verrà ugualmente. Ogni volta che Srila Bhaktisiddhanta scriveva o parlava della filosofia Vaishnava, non transigeva. La conclusione concordava con gli Shastra ed era basata su una logica ferrea. Talvolta accadeva ad Abai di ascoltare gli insegnamenti eterni espressi in un modo singolare e Abai sapeva che non li avrebbe mai dimenticati. Non cercare di vedere Dio, diceva Srila Bhaktisiddhanta, ma agisci in modo che Dio ti veda. Srila Bhaktisiddhanta condannava i proprietari dei templi che facevano affari esibendo le divinità come mezzo di sostentamento. Il lavoro di spazzino della strada è più onorevole, diceva. Aveva coniato una frase in bengali. Salagram Dvara Badam Banga. I preti considerano la divinità Salagrama, una pietra per schiacciare le noci. In altre parole, se una persona mostra la forma Salagrama del Signore o qualsiasi altra forma della divinità con il solo proposito di guadagnare, non sta considerando la divinità come il Signore, ma la considera una pietra, un mezzo per il suo sostentamento. Abai ebbe l'opportunità di vedere il comportamento di Srila Bhaktisiddhanta con il nazionalista Subhash Chandra Bose, che era stato compagno di Abai allo Scottish Churches College. Bose era venuto con un atteggiamento in qualche modo critico verso Srila Bhaktisiddhanta a causa del suo tentativo di reclutare giovani per la vita religiosa. Srila Prabhupada dice, Subhash Chandra Bose arrivò e disse, quante persone hai fatto prigioniere e se non stanno facendo niente per il nazionalismo? Ma il mio Guru Maharaj rispose: bene, tu ti assicuri molti uomini forti per la propaganda nazionalista, ma queste persone sono così deboli. Puoi constatarlo, sono molto magri. Perciò non porre gli occhi su di loro. Lascia che mangino qualcosa e cantino Hare Krishna. In questo modo egli lo evitò. Srila Bhaktisiddhanta era solito dire che il giorno in cui i giudici nei tribunali sarebbero stati devoti di Krishna, con il tilak Vaishnava sulla fronte, allora egli avrebbe saputo che la missione di diffondere la coscienza di Krishna stava ottenendo il successo. Egli disse che Gesù Cristo era un Satyavesha Avatara, un'incarnazione di Dio investita di potere. Come avrebbe potuto essere diversamente, egli disse, egli sacrificò ogni cosa per Dio. Nel suo linguaggio erudito dichiarava: non vi è possibilità che il contegno dei materialisti possa elevarli fino all'autocrate trascendentale. Ma talvolta, parlando, esprimeva il medesimo concetto in maniera più terrena. Gli studiosi materialisti che stanno cercando di capire il Signore Supremo con i loro sensi e con la speculazione mentale sono simili a una persona che cerca di assaggiare il miele contenuto in un barattolo leccandone la parte esterna. La filosofia senza religione, egli diceva, è arida speculazione, e la religione senza filosofia è sentimento e talvolta fanatismo. Srila Bhaktisiddhanta diceva che il mondo intero è costituito soltanto da una società di imbroglioni e di imbrogliati. Portava l'esempio di donne di facili costumi che visitavano alcuni luoghi santi in India con l'idea di sedurre i sadhu, pensando che avere un figlio da un sadhu sia una cosa che dà prestigio. Similmente, uomini privi di moralità si vestono da sadhu nella speranza di essere sedotti da donne ingannatrici. Egli concludeva affermando che si dovrebbe aspirare a lasciare il mondo materiale e a tornare a Dio, perché questo mondo non è un luogo adatto per un gentiluomo. Abai notò che quando i discepoli domandavano al maestro spirituale qualcosa che si riferiva al futuro, egli non rispondeva mai: sì, ciò accadrà, oppure sì, lo faremo. Diceva invece: sì, se Dio vuole, forse sarà così. Benché in gioventù fosse stato un astrologo in grado di predire il futuro, aveva abbandonato questa pratica. Srila Bhaktisiddhanta restò brahmachari per tutta la vita ed era molto rigido nell'evitare la compagnia di donne. Una volta Abai era seduto con il suo maestro spirituale alla presenza di un altro discepolo che aveva accanto sua moglie. La moglie chiese a Srila Bhaktisiddhanta se poteva parlare con lui in privato, ma egli rispose: no, di qualunque cosa si tratti, puoi domandare qui, non posso vederti in privato. Abai fu colpito dalla sua risposta perché Srila Bhaktisiddhanta aveva superato i 70 anni e la ragazza avrebbe potuto essere sua nipote. Indipendentemente da ogni considerazione, egli non parlava mai da solo con donne. A Srila Bhaktisiddhanta piaceva far diventare sannyasi i suoi discepoli. Un giorno però accadde che uno dei suoi sannyasi fu trascinato via a forza dalla moglie. Tara sugita na tane Piangendo, Srila Bhaktisiddhanta si lamentò per non essere stato in grado di salvare quell'anima. Tuttavia non parlò mai in modo dispregiativo della vita di famiglia vissuta in coscienza di Krishna. Mi sarei dedicato al sesso centinaia di volte, diceva, se avessi pensato di poter far nascere bambini coscienti di Krishna. Mandava fuori i brahmachari a vendere i giornali della Gaudiya Math e i libri, e anche se un brahmachari riusciva a venderne soltanto uno o due, era contento ed esclamava: sei così bravo. Per valutare se uno scritto era adatto a essere pubblicato, contava quante volte la parola Krishna o Chaitanya apparivano nel testo. Se questi santi nomi erano citati a sufficienza, diceva: questo va bene, questo può essere usato. Egli diceva in Bengali: Pranachayarse e tu prachar. Una persona deve essere viva per predicare, un morto non può predicare. Quando qualcuno dei suoi predicatori, dopo essere stato fuori a cantare o a predicare, gli riferiva che nessuno aveva prestato attenzione a quell'incontro, Srila Bhaktisiddhanta rispondeva: non importa, le quattro pareti ti ascolteranno, questo è sufficiente. Non ti addolorare, continua a cantare. E commentando il fatto che uno dei suoi discepoli se n'era andato, diceva: alcuni soldati moriranno. Tuttavia egli non voleva che i suoi discepoli conducessero una vita indolente. Egli una volta criticò un discepolo perché era amante delle comodità. Né voleva che i discepoli si dedicassero a pratiche di austerità in luoghi isolati. Egli cantava una canzone di sua composizione. Manatumi Kishir Vaishnava. Mia cara mente, che genere di Vaishnava sei? Canti Hare Krishna in un luogo solitario, imitando i grandi santi Haridas Thakur e Rupa Goswami. Ma la tua vera occupazione è quella di pensare alle donne e al denaro. La tua mente è piena di tutte queste cose impure e il tuo bhajan è soltanto un inganno. Egli insegnava che se un devoto abbandonava la sua predica nella città a favore di una meditazione solitaria, in realtà in questo modo stava ingannando e imitava i grandi santi nella speranza di ricevere dagli altri un'adorazione a buon mercato. Perciò a Srila Bhaktisiddhanta non piacque mai l'idea di aprire un ramo della Gaudiya Math in un luogo che non fosse molto popolato. Abai continuò ad ascoltare il suo maestro spirituale, cogliendo ogni opportunità, ma raramente gli fece una domanda di carattere filosofico. Egli preferiva ascoltare. Srila Prabhupada: non feci mai una domanda al mio maestro spirituale, eccetto una. Come potrò servirti? Abhay Charande si era distinto per i suoi affari in campo farmaceutico. Si era ben sistemato al laboratorio Bose e altre società lo richiedevano come loro agente. Egli aveva speranze di diventare ricco. Srila Prabhupada racconta: il mio guru Maharaj mi aveva ordinato, fa questo. Io però pensavo, prima voglio diventare un uomo ricco, poi lo farò. All'inizio pensavo, ora i miei confratelli hanno preso il sannyasa, elemosinano di porta in porta, perché dovrei elemosinare? Guadagnerò e darò l'avvio alla coscienza di Krishna. Abhay ricevette una proposta di lavoro dalla più grossa società farmaceutica indiana, la Bengal Chemical. Egli però la respinse perché le persone incaricate delle trattative non erano disposte ad accettare tutte le sue condizioni. Per quanto più tardi poi si pentisse del suo rifiuto, eppure vi erano segni molto buoni. L'astrologo gli aveva predetto che sarebbe diventato uno degli uomini più ricchi dell'India. Il dottor Kartik Bose aveva detto a suo suocero, è un uomo davvero intelligente. Tuttavia vi erano anche altri segni. Oltre ai molti profitti che egli si era assicurato con i suoi estesi viaggi, vi erano anche molti conti che si accumulavano. Il versamento dei conti veniva fatto in ritardo e il debito continuò e cominciò ad aumentare, finché egli fu debitore verso il laboratorio Bose per un totale di 10.000 rupie. Inoltre Abhay aveva dei nemici. Il funzionario che aveva preso il posto di Abhay nell'ufficio direttivo del laboratorio Bose a Calcutta cercò di istigare il dottor Bose contro di lui, insinuando che egli era troppo indipendente. Aveva sentito parlare della sua trattativa con la Bengal Chemical e il nuovo direttore attribuì l'accumulo di debiti di Abhay alla sua mancanza di lealtà verso il suo ufficio. Kartik Bose rimase favorevole ad Abhay, ma quando il debito si trasformò in pressione finanziaria andò ad Allahabad per investigare. Alla farmacia Prayag parlò con il dottor Ghosh, che gli disse: Abhay è un uomo molto onesto, non vi è colpa in lui. In buona fede ha venduto a credito molti prodotti e ora non riesce a recuperare il denaro. Va bene, disse il dottor Bose, ma non posso continuare a dargli denaro. Abhay verificò i suoi conti con il dottor Kartik Bose ed essi concordarono che la migliore via per liquidare la questione era che il dottor Bose rilevasse la farmacia Prayag e i crediti di Abhay. Così Abhay si liberò dai debiti, ma restò senza impiego. Atulananda Brahmachari lo avvicinò. Perché non vieni alla Mata? Ora sei libero. Abhay cominciò a frequentare più assiduamente il vicino centro, Rupa Goswami Math, dove gli uomini della Gaudiya Math, in conformità al loro spirito di rinuncia di Brahmachari, gli suggerirono di dipendere completamente da Krishna, di abbandonare il mondo, di trasferirsi con loro e diventare predicatore a tempo pieno. Per Abhay, tuttavia, non vi era possibilità di lasciare gli affari. Se l'avesse fatto, cosa sarebbe accaduto a sua moglie e ai suoi figli? Radharani ora aveva il terzo bambino, un maschio. Le responsabilità finanziarie erano quindi aumentate. I brahmachari avevano tutte le buone intenzioni chiedendogli di abbandonare il mondo ed era giusto per loro comportarsi così, ma Abhay non poteva prendere in considerazione tale proposta. Senza lavoro si trovava in una situazione critica, egli però rimase fiducioso ed era ansioso di assumere un nuovo impiego. Vi erano altre compagnie disposte ad assumerlo come loro agente. Alcuni suoi vecchi clienti volevano essere serviti da lui, anche se non dipendeva più da Bose. Abai pensò di organizzare un laboratorio farmaceutico suo, finché decise di mettere su una piccola azienda per proprio conto, ma in una città più grande di Allahabad, e scelse Bombay. Decise che la sua famiglia poteva rimanere ad Allahabad, mentre lui e suo fratello sarebbero andati a Bombay per trovare un appartamento ed esaminare le possibilità di aprire una fabbrica in quella città. Benché Radharani fosse abituata ai viaggi del marito, questi non si erano mai prolungati tanto quanto si prospettava quest'ultimo. Abai parlò con lei spiegandole che la recente perdita negli affari era stata un piano organizzato da Krishna. Ora, di nuovo, per provvedere alla famiglia, egli doveva dare inizio a un ampio giro d'affari ed era preferibile realizzare ciò in una città più importante come Bombay. La vita familiare ad Allahabad sarebbe stata temporaneamente smembrata. Aprì quindi una piccolissima base di produzione farmaceutica ad Allahabad e la affidò al nipote Tulasi e partì per Bombay con suo fratello. A Bombay Abai affittò un appartamento sulla Grand Road e, servendosi della conoscenza acquisita come direttore del laboratorio Bose, fondò la sua azienda farmaceutica. Gli affari andavano bene quando una grossa società, lo Smith Institute, lo richiese come rappresentante della Smith, mentre contemporaneamente sviluppava la sua azienda. Aveva fiducia nella sua abilità di guadagnare nell'attività farmaceutica. Mentre girava qua e là per Bombay per affari, Abai incontrò alcuni membri della Gaudiya Math. Bhakti Rakshaka Sridhara Maharaj e Bhakti Saranga Goswami, il sannyasi più anziano tra i discepoli di Bhakti Siddhanta Sarasvati. Abai li riconobbe come rispettabili confratelli, esperti delle scritture di filosofia Vaishnava. Sembrava che fosse destinato a incontrare i suoi confratelli ovunque andasse. Sia Abai che i sannyasi considerarono propizio il loro apparentemente occasionale incontro nella città. Li aveva incontrati ad Allahabad come membri della Gaudiya Math, ma essi non avevano un centro permanente e stavano tentando di mettere le basi per un nuovo centro. A nome di Bhaktisiddhanta Sarasvati, essi andavano di porta in porta sollecitando adesioni di sostegno per stabilire un ramo della Gaudiya Math a Bombay. Abai voleva aiutare. Come collega confratello al servizio del suo maestro spirituale, egli offrì loro il suo servizio. Benché come sannyasi essi si trovassero in una posizione superiore, trovandosi in una condizione precaria, considerarono Abai la persona che poteva aiutarli. Erano vissuti in una piccola casa sulla Proctor Road e avevano avuto ben poche possibilità di avere contatti importanti. Ora formavano un gruppo. Abai introduceva i sannyasi alle sue conoscenze di affari e i sannyasi ricevevano donazioni per il nuovo centro. Abai Charanaravinda era bravo a collettare fondi e volentieri offriva il suo tempo. Di nuovo i suoi confratelli cominciarono a spingerlo affinché partecipasse attivamente alla predica nella Gaudiya Math. Srila Prabhupada racconta: formavamo un gruppo per raccogliere donazioni, Sridhara Maharaj, Goswami Maharaj e io. Io li introdussi ad alcuni chimici e medici con i quali ero in rapporto e in due giorni collettammo 500 rupie. Sridhara Swami parlava, io introducevo e Goswami Maharaj sollecitava l'interesse. Goswami Maharaj mi apprezzava molto e cominciò a parlare molto di me. Per essere un babu è molto esperto, ha tanti amici e colletta grandi somme. perché non dovrebbe essere responsabile del nostro Mata? Perché non vive con noi? Perché vive separatamente? Abai visitò l'appartamento del Mata sulla Proctor Road, dove egli si univa ai devoti nel Kirtan e ascoltava mentre parlavano del Bhagavatam. Su richiesta dei sannyasi, Abai si assunse la responsabilità di trovare un luogo più adatto per il centro di Bombay. Dovunque andasse nella città, aveva cura di vedere se fosse possibile trovare una residenza conveniente. Jaya Kunja Bihari. Come aveva la responsabilità della moglie e dei figli ad Allahabad, così in forza della sua iniziazione sentiva il legame della responsabilità verso i suoi confratelli. Doveva partecipare alla predica, non soltanto lavorare per la sopravvivenza in un mondo pieno di competitività. Competitività affaristica. Tuttavia non pensava di poter vivere come un sannyasi, senza possedere nulla, senza lavoro, dormire sul pavimento e nutrirsi di un magro pasto. Il 25 febbraio 1935. Era il 62esimo compleanno di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. A Jagannath Puri, dove Srila Bhaktisiddhanta risiedeva, i devoti festeggiavano il giorno con una cerimonia. Al piccolo centro di Bombay, i pochi discepoli organizzarono un festeggiamento serale e invitarono le persone del luogo. Per l'occasione Abai scrisse una poesia. Adoriamo, adoriamo tutti il giorno felice, benedetto, quando il cielo più dolce del maggio, quando Apuri è apparso nel santo luogo, mio Signore Maestro, Sua Divina Grazia. O mio Maestro, Angelo di buona novela, concedici la tua luce, accendi la tua candela. La razza umana lotta per l'esistenza, la sola speranza, Sua Divina Grazia. Siamo confusi, ci siamo smarriti. Salvaci, o Signore. Questa è la nostra fervida preghiera. Prodigiose sono le tue vie per farci invertire la rotta. Adoro i tuoi piedi, tua divina grazia. Abbiamo dimenticato Krishna, noi anime cadute. È il prezzo più duro, lo scotto dell'illusione. Oscurità all'intorno. Niente è reperibile, la sola speranza, Sua Divina Grazia. Il messaggio del servizio, questo ci hai portato. Una vita sana. Opera di Sri Chaitanya, sconosciuta a tutti, essa è piena di fuoco, questo è il tuo dono, tua divina grazia. L'assoluto è senziente, tu l'hai dimostrato, la calamità impersonalista, tu l'hai rimossa. Ci concedi una vita nuova e fresca, adoro i tuoi piedi, tua divina grazia. Se non fossi venuto, chi avrebbe portato il messaggio di Krishna, potente e ardito? Questo è tuo diritto. Tu hai il comando, salvami, o mai caduto, tua divina grazia. La linea del servizio che tu hai tracciato è sana e gradevole, rugiada mattutina, il più anziano di tutti, ma in nuove vesti. Il tuo è un miracolo, tua divina grazia. Abai Charan Das. Abai compose anche un discorso che lesse dinanzi all'assemblea di ospiti e membri della Gaudiya Math. Benché la sua lingua d'origine fosse il Bengala, il suo inglese era chiaro e naturale. Signori, l'offerta di omaggi che è stata preparata questa sera per Acharya Deva non rappresenta un interesse settario, perché quando parliamo del principio fondamentale di Gurudeva o di Acharya Deva parliamo di qualcosa che è universale applicazione. In questo caso il problema di discriminare tra il mio guru e i vostri guru o chiunque altro non si pone nemmeno. Esiste soltanto un guru che appare in infinite forme per insegnare a voi, a me e agli altri. Il guru o Acharya Deva, come apprendiamo dalle scritture autentiche, emana il messaggio del mondo assoluto, voglio dire la dimora trascendentale della persona suprema, dove ogni cosa, in modo indifferenziato, serve la verità assoluta. Come una poesia, il discorso era personale, ma più ancora della poesia, il discorso era autorevole predica filosofica. I confratelli rimasero colpiti nell'ascoltare Abai, che in modo così esperto presentava la filosofia Vaishnava. Come era possibile? Naturalmente, ciò non doveva essere stato improvviso come una sorpresa. Anche lui, come del resto i suoi confratelli, avevano ascoltato la filosofia Vaishnava dalle labbra di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, perché non avrebbe dovuto essere in grado di enunciare gli insegnamenti del suo maestro spirituale, dato che aveva ascoltato da lui e aveva letto la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam e il Bhakti Rasamrita Sindhu. Non era forse un devoto nella Parampara? Fino a quel momento, tuttavia, nessuno sapeva che egli fosse in grado di predicare in inglese con tanta maestria. Perciò, se l'assoluta verità è una, e riguardo a questo noi pensiamo che non vi possa essere divergenza di opinioni, anche i guru non possono essere due. Acharya Deva, presso il quale ci siamo riuniti stasera per offrirgli i nostri rispettosi omaggi, non è il guru di un'istituzione settaria o uno dei numerosi e dissenzienti esponenti della verità. Al contrario, egli è il Jagat Guru, il guru di tutti noi. L'unica differenza è che alcuni obbediscono a lui totalmente dal profondo del cuore, mentre altri non gli obbediscono in modo diretto. Il guru di cui Abai parlava naturalmente era Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, il rappresentante del compilatore originale delle scritture, Vyasadeva. Abai spiegò che Sri Krishna aveva trasmesso la conoscenza trascendentale a Brahma, il creatore di questo universo. Da Brahma la conoscenza era discesa a Narada e da Narada a Vyasa, da Vyasa a Madhva. Poiché Srila Bhaktisiddhanta stava presentando la conoscenza così com'è, senza alcuna interpretazione, nella Parampara era un autentico Acharya che poteva illuminare altre persone con la conoscenza rivelata dai Veda. Abai continuava: signori, la nostra conoscenza è così povera, i nostri sensi così imperfetti, le nostre fonti così limitate, che non è possibile per noi avere nemmeno la più esile conoscenza della religione assoluta senza arrenderci completamente ai piedi di loto di Sri Vyasadeva o al suo autentico rappresentante. Come Come Abai spiegava, questa conoscenza trascendentale era stata conosciuta in India per migliaia di anni e questa conoscenza, benché al presente oscurata, era il vero dono dell'India al mondo. Possiamo concludere affermando che l'oscurità dell'età presente non è dovuta a mancanza di avanzamento materiale, ma è dovuta al fatto di aver perso l'orientamento del nostro avanzamento spirituale, che è la prima necessità della vita umana e il principio su cui poggia la più elevata forma di civiltà. Gettare bombe dagli aeroplani non significa essersi evoluti nella linea di comportamento che consisteva nel lanciare grosse pietre sulla testa dei nemici dalla sommità delle colline. Il perfezionamento dell'arte di uccidere i nostri vicini, inventando cannoni o servendosi di gas venefici, non significa certo essere avanzati dalla primitiva barbarie che rendeva orgogliosi della propria arte di uccidere con archi e frecce. Lo sviluppo di un senso egoistico di sfrenata gratificazione è soltanto la prova di un animalismo intellettuale. Così, mentre alcuni vivevano ancora nel grembo della dimenticanza storica, i saggi dell'India avevano sviluppato un genere differente di civiltà, che rende idonei a conoscere se stessi. Essi scoprirono che non siamo esseri materiali, ma spirituali, permanenti e non distruttibili servitori dell'assoluto. Il discorso continuava con la descrizione delle terribili conseguenze di una vita spesa male, le sofferenze del ciclo ripetuto di nascita e morte. Di nuovo Abai metteva in evidenza la necessità di arrendersi al maestro spirituale. Egli criticava i filosofi empirici mondani, i politici atei e coloro che si dedicano ciecamente alla gratificazione dei sensi. Ripetutamente puntualizzava la sublime e naturale posizione dell'anima al servizio di Dio e del puro devoto di Dio. Abai, un discepolo iniziato dal suo maestro spirituale da poco più di 2 anni, riferendosi a se stesso come uno studente, continuava. Signori, benché noi siamo come ragazzi ignoranti nella conoscenza trascendentale, Sua Divina Grazia, il mio Gurudeva, ha acceso un piccolo fuoco dentro di noi per dissipare l'oscurità invincibile della conoscenza empirica. E noi siamo andati così avanti sulla strada sicura, che nessun ammonto di argomentazione filosofica delle scuole che si basano sull'empirismo, dottrina che ritiene l'esperienza l'unica base del conoscere, possono farci deviare minimamente dalla posizione di eterna dipendenza dei piedi di loto di Sua Divina Grazia. E siamo preparati a sfidare i più eruditi studiosi della scuola Mayavada su questo vitale assunto, che Dio, la Persona Suprema e i suoi divertimenti di Goloka sono la sola sublime informazione dei Veda. E concludiamo qui anche per oggi la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, prima parte, del capitolo Come potrò servirti. Bandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama, Hare Rama.